Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Debs e Frey. Ben ritrovati e ben ritrovati su Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Anche questo sabato vi portiamo alla ricerca di qualche evento o personaggio del passato che ci ha incuriosito. Oggi andiamo a parlare di una donna eccezionale, Audre Lorde. E piuttosto che perdere tempo con altre parole, iniziamo con le parole con cui lei stessa amava definirsi. Nera, lesbica, madre, guerriera, poeta. Si definiva infatti così Audre Lorde, una delle poete e scrittrici più note della storia contemporanea americana, che all'impegno letterario ha sposato un percorso da attivista su vari fronti nel corso di tutta la sua vita. Audre Lorde, di cui in Italia conosciamo purtroppo soltanto poche traduzioni, fra cui Sorella Outsider e Zami, è stata una delle pioniere del concetto di intersezionalità. Non sei solo donna, non sei solo nera, come non sei né solo sfruttata o lesbica. La tua condizione di oppressa è la somma di tutto ciò, perché siamo oppresse ed oppressi da un sistema dominante dalle molte facce. Nata ad Harlem nel 1934 da genitori originari di Karayuku, l'isola più grande delle Grenadine, nei Caraibi, l'identità di Audre Lorde è ampia, complessa, sfaccettata, così come lo è stata la sua vita, fortemente intrecciata con la sua vita e attività politica. Pur scrivendo moltissimo fin da piccola, Audre Lorde insegue vari lavori, fa l'infermiera, l'operaia, l'impiegata, la bibliotecaria e dopo la laurea insegna inglese all'Hunter College, un'università di New York, e gira il mondo tenendo conferenze e seminari su poesie politiche. Il femminismo di Audre Lorde, così come dimostra la sua stessa vita fatta di cultura ma anche di lavoro e scelte relazionali non convenzionali, è un femminismo in cui centrale è l'attenzione alla quotidianità. È dall'esperienza quotidiana infatti che deriva la sua convinzione che razzismo, omofobia, sessismo e classismo non siano altro che facce diverse del medesimo potere e che quindi vadano combattuti trasversalmente. Possiamo ritenere Audre Lorde una delle anticipatrici del femminismo intersezionale. Cercando di essere un po' semplicistici, vuol dire che tutte le categorie sociali alle quali un individuo appartiene, come il genere, l'età, la classe, l'etnia, il sesso, la religione e lo stato di salute, agiscono simultaneamente e non separatamente. Detto in parole ancora più povere, non si può pensare che all'emancipazione del genere femminile pensando che ci sia una soltanto un'oppressione soltanto dei maschi sulle femmine, ma bisogna prendere in considerazione come le oppressioni subite dalle donne bianche, nere, musulmane, povere, disabili siano tutte una specificità che deve essere presa in carico quando si parla di liberazione. Ovviamente questo approccio vede i suoi germogli all'interno del femminismo nero, dove le donne combattevano contro il razzismo esercitato anche dalle donne femministe bianche e contro il sessismo non solo degli uomini bianchi ma anche dei compagni neri in lotta. In un articolo del 1979, Audre Lorde rispondeva in maniera schietta al militante nero Robert Straplesh, a che aveva dedicato un articolo al femminismo nero, articolo che alla Lorde non piacque molto decisamente. Invece di dare l'avvio al necessario dialogo tra uomini neri e donne nere, Straples ripiega su una linea difensiva che ricorda i liberal bianchi degli anni 60, per molti dei quali ogni dichiarazione di orgoglio nero o di autoaffermazione era automaticamente vista come una minaccia alla loro identità o un tentativo di spazzarli via. Qui noi abbiamo un uomo nero intelligente che crede, o almeno dice di credere, che ogni appello a noi donne nere ad amare noi stesse, e nessuno dice solo noi stesse, sia una negazione o una minaccia alla sua identità. La consapevolezza del maschio nero deve essere accresciuta fino a comprendere che il sessismo e l'odio per la donna sono disfunzionali alla sua liberazione di uomo nero, perché sorgono dalla stessa costellazione che produce il razzismo e l'omofobia. Finché questo accadrà, non saremo capaci di intraprendere quel dialogo tra donne nere e uomini neri, che è così essenziale alla nostra sopravvivenza in quanto popolo. Il permanere di questa cecità fra di noi può solo servire al sistema oppressivo entro il quale viviamo. Audre Lorde, come dicevamo, durante tutta la sua vita scrive moltissimo e spazia dal linguaggio intenso della poesia al linguaggio duro degli attacchi a chiunque non capisca a fondo le ragioni delle donne nere. È diretta, spietata, densa, non si accontenta, ne ha una per tutti e non ha mai paura di rovinare la festa. Esattamente come fece l'apertura del convegno nazionale della Women's Studies Association del giugno del 1981. All'inizio del suo intervento, Audre Lorde cita degli esempi di atteggiamenti razzisti di donne bianche intellettuali verso le donne nere, come questi che vengono elencati. Un'accademica bianca plaude alla pubblicazione di una raccolta di donne di colore non nere. Mi consente di accostarmi al tema del razzismo senza dover affrontare la durezza delle donne nere. In un raduno culturale internazionale di donne, una nota poeta americana, bianca, interrompe la lettura di lavori di donne di colore per leggere le sue poesie, poi scappa via a un convegno importante. Il tutto per introdurre il fatto che non si può parlare di razzismo e sessismo se non si toccano con mano i fatti, anche quando si è in ambienti accademici. Continua infatti così il suo intervento Delord. Se le donne dell'Accademia vogliono davvero un dialogo sul razzismo, bisognerà che riconoscano i bisogni e i contesti di vita delle altre donne. Qui, nel 1981, l'Associazione Nazionale The Women's Studies tiene un convegno nel quale si impegna a rispondere al razzismo, ma si rifiuta di abbonare la quota di registrazione alle donne povere e alle donne di colore che vorrebbero essere presenti. Questo ha reso impossibile a molte donne di colore, per esempio a Wilmette Brown, delle donne nere per il salario al lavoro domestico, la partecipazione al convegno. Questo deve restare uno dei tanti casi in cui l'Accademia discute della vita reale senza uscire dal circuito chiuso dell'Accademia? Un'intellettuale importantissima che soprattutto in questo periodo potrebbe aiutarci a comprendere meglio come mettere insieme le varie esplosioni di movimenti, pensiamo a Black Lives Matter o non una di meno, che richiedono diritti, rivendicano una propria identità, criticano le politiche governative, a volte accomunati da parole d'ordine, a volte molto distanti in pratiche e linguaggi. Bene, accompagniamo la storia di Audre Lorde ad un album. L'album è Alma Mestizia, di una rapper guatemalteca, Rebecca Lane, che molto si spende proprio in questa direzione intersezionale, potremmo dire, per omaggiare Audre Lorde. E ci ascoltiamo dall'album Alma Mestizia la title track, per l'appunto Alma Mestizia. Alma apprendiendo a convertirme en animal como un nahual. Soy un cuerpo transitando el camino espiritual. No es lineal, mi lenguaje es ancestral. Viajo en una espiral entre mundos y fronteras, cuestionando lo real, el bien y el mal. Lo desigual, lo heredado, lo adquirido y lo impuesto por igual. Soy criatura entre culturas, hurgando entre la basura las creencias que me anulan para darle sepultura. Madre natura, sutura con ternura la ruptura de mi cuerpo cuando suelte mi dura armadura. Y es que no madura una herida si no cura, una mente sin locura, un corazón sin ataduras. Fluir es destruir y volver a construir una casa sin paredes y perder miedo a morir. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción atroz, cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, cuatro colores. Mestiza soy, mestiza soy, mestiza soy, cuatro colores. Mestiza soy. Buscar mi identidad en una sociedad racista, la mente colonialista instalada en mi pupila. El reflejo en el espejo me devuelve lo que creo. Si no moldeo mi alma, yo lo harán los modelos eurocéntricos, palocéntricos, que convierten mi experiencia en un objeto exótico. Pintando las culturas como algo folclórico, restándole lo subjetivo a los modelos teóricos. Quisieron que callara la herencia de mi sangre, quisieron que olvidara la violencia a mi madre, pero no pudieron quitarnos el fuego interno, el eterno conocimiento, las señales en los sueños. Por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos con los dos puños en alto y en el alma amuletos, con la fuerza del volcán, el rugido del jaguar, la fuerza de guerrera y espíritu animal. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz en mi color. Bene, siamo di nuovo in onda, siete sempre con Balloon e stiamo parlando di Audre Lorde. Audre Lorde inizia a farsi conoscere in Italia ad un pubblico non spacializzato solo qualche anno fa. Ci si è interrogate molto sul perché la traduzione dei suoi testi non conoscessero delle date più lontane. La spiegazione è che probabilmente alla base c'è un atteggiamento di un certo femminismo italiano piuttosto elitario e più legato a un femminismo essenzialista, universalista, poco incline a confondersi con altre questioni sociali, o forse più realisticamente rappresenta una scarsa attenzione alle tematiche di genere e alla vita di donne nere e femministe che esprimono concetti rivoluzionari ma con estrema facilità nella scrittura. L'opera editoriale che segnaliamo per prima è la miscellanea di scritti politici tradotti da Margherita Giacobino e Marta Giannello Guida, che si chiama Sorella Outsider, uscito nel 2014 grazie a un finanziamento collettivo iniziato nell'ambito del circolo LGBTQ Mauris di Torino e che ha poi coinvolto diverse città. È un testo a cui ci si approccia con facilità, è diviso in sezioni ed è sostanzialmente una serie di articoli. Oltre ai temi più politici, si parla di poesia e di lotta al cancro. Anche questa esperienza, per Audre, diventa motivo di riflessione contro le norme che regolano la vita e la morte degli esseri umani, a seconda della razza, del sesso o della classe sociale. Sempre nel 2014 viene tradotta l'autobiografia Zami, Così riscrive il mio nome, per ETS, tradotta da Grazia Di Canio e curata da Liana Borghi. Zami è una parola della terra di origine di Audre per donne e significa donne che lavorano insieme come amiche e amanti. Il libro è una biomitografia che percorre 23 anni di vita, dai ricordi dell'infanzia a Harlem alle lotte per i diritti civili, agli incontri nei bar lesbo-gay degli anni 50. Il tutto si intreccia con la storia politica del suo paese e con il suo strato mitico di culture afro-caraibiche. Prima di queste due uscite c'era ovviamente chi si interessava al pensiero di Audre Lorde in Italia. Ricordiamo un importante evento organizzato dal gruppo Fuoricampo, Il valore della differenza, l'attualità del pensiero di Audre Lorde, a cui avevano partecipato anche le registe che fecero due importanti documentari sempre su Audre Lorde, l'ultimo del 2012, Audre Lorde, The Berlin Years 1984-1992, scusate non parlo molto bene l'inglese, che restituisce la forza della sua figura grazie ai video in cui si può apprezzare la sua vivace presenza fisica. Audre Lorde viene oggi studiata come un'intellettuale, una scrittrice, una militante. Ma noi vorremmo soffermarci su un aspetto su cui anche lei insisteva molto. Per parlare di rivoluzione, ed essere rivoluzionaria non è obbligatoria la via della militanza, fatta spesso di linguaggi faticosi e pezzi di vita staccati da tutto il resto. Ma si può parlare di rivoluzione ed essere rivoluzionaria contaminando tutto il quotidiano con elementi rivoluzionari. Ecco, Audre nella sua vita ha fatto questo, affrontando la maternità, la sessualità, il cancro, il lavoro, le amicizie, il razzismo più crudele, lo snobismo dell'accademia, mantenendo la sua vita quotidiana. Elaborazione teorica ed esistenza si mescolano, emozioni e politica acquistano pari valore, come il pubblico e il privato. Andiamo un altro po' in musica, ci ascoltiamo sempre l'album di Rebecca Lane, quest'album che lei ha dedicato, come tante dei suoi lavori, alle battaglie femministe, alle battaglie delle donne, sempre dal Guatemala. Ci ascoltiamo Rebecca Lane, Reina del Caos. Wow. Desde Guatemala, Reina del Caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria, esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones, el falo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado, los que nos masacraron aún controlan el estado. ¿A quién conviene el orden que se mantiene? Perdonen pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo pero no es suficiente, aunque intento no entiendo al resto de la gente. ¿Qué más das? Igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta. Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra. Pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apunta. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Y no voy a hacer arte nada más pa' complacerles. No voy a censurarme para no incomodarles. Vengo a contar mi historia, no a tener buenos modales. No vine a quedarle bien a nadie. No vine a hacer las paces, no me pongo disfraces. No vine a repetir las frases de organismos internacionales. No salgo a protestar para que la gente me vea y luego subir fotos pa' que crean en la calle hay pelea. Yo no elegí la guerra, pero nací guerrera y lo seré hasta en el día que me muera. Ni perdón ni olvido, aunque la llaga me duela, la llama en el alma me consuela. Ay, no busco un escenario para amenizar tu fiesta. Cada una de mis letras una falla en el sistema. Los dinosaurios duermen con el arte sin protesta. Que se extingan de una vez en el planeta. Que se extingan de una vez tú. Reina del caos, reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Alla conclusione di questa puntata in cui vi abbiamo effettivamente presentato un personaggio eccezionale. Quello che vorremmo fare però con Valloon in generale è raccontarvi delle storie che coinvolgono in realtà anche persone comuni che non per forza per portare avanti momenti e processi emancipatori hanno fatto delle cose quasi fuori dal normale. È vero, probabilmente raccontando delle biografie c'è un po' questo il rischio, ovvero di far passare il messaggio che per dichiarare la dignità della propria esistenza bisogna fare chissà quale processo quasi mitico. Per disinnescare questo falso meccanismo ricordiamo che Audre Lorde, come tante attiviste, come tante rivoluzionarie, sono state tali perché hanno intrecciato tantissimi rapporti e relazioni con tantissime altre donne comuni. Così come le rivoluzioni e i movimenti di emancipazione l'hanno fatto per lo più donne, lavoratrici e persone, diciamo, comuni che nel loro quotidiano hanno davvero cercato di inserire la rivoluzione proprio nel loro vissuto quotidiano senza che poi il loro vissuto quotidiano dovesse per forza cambiare. Esatto, hanno bloccato, diciamo, gli ingranaggi quotidiani nei loro luoghi di lavoro, nelle loro relazioni e così via. E da lì poi sono scatenate ovviamente ondate, rivoluzioni, movimenti di cui a noi piace raccontarvi tanto, e Audre Lorde è stata una delle protagoniste di movimenti davvero giganteschi. Esatto, poi la lezione di Audre Lorde passa proprio anche su questo, cioè anche per un'attenzione specifica che possiamo dare alla storia delle donne in generale, cioè nel senso non è per fare le donne per far storia, sembra che debbano essere eccezionali, debbano avere un profilo eccezionale per entrare nella storia. In realtà non è così, come ci sono le eroine fra virgolette, però ci sono tante altre donne che si muovono, che partecipano alla storia, che costruiscono la storia.